Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.13 e tramonterà alle 17.31. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. C'erano una volta le latterie sociali turnarie, una per ogni paese, anzi una per ogni campanile. Oggi il loro numero non arriva a 10, ma da questi esempi ed esperienze sta ripartendo una rinascita del settore caseario di qualità e prossimità. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Anos Costantini, che intesse le lodi e la storia della cipolla in Friuli Venezia Giulia. Di nuovi diritti di impianto di vigneti in Friuli Venezia Giulia si occupa la rubrica delle normative, mentre in quella della frutticoltura focus sulla realtà e potenzialità della coltivazione del ciliegio. Continua la serie delle tesi di laurea in tema agrario discusso all'Università di Udine, oggi la volta di un lavoro sull'utilizzo dei biostimolanti vegetali nella coltivazione del peperone. A seguire una serie di annotazioni di Silvia Stefanelli su teoria e prassi del benessere animale e la sostenibilità all'allevamento. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. In Friuli Venezia Giulia, fino agli anni 50 del secolo scorso, si può dire che a ogni campanile corrispondesse una latteria sociale turnaria. Ce n'erano più di 600. Una vera istituzione partita sul volgere dell'Ottocento che ha cambiato il volto dell'allevamento e della vita contadina. Oggi tutto è cambiato, si possono contare sulle dita delle mani, ma negli ultimi anni è partita una lenta e interessante evoluzione. Ne parliamo con Stefano Simsige, tecnico dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Quali sono le latterie sociali turnarie sopravvissute? Beh, diciamo che rispetto a quello che era il mondo delle latterie del Friuli Venezia Giulia, soprattutto nella seconda parte del secolo scorso, che avevano raggiunto anche un numero di 650, oggigiorno le latterie sono senz'altro ridotte di numero. Difatti, come latterie turnarie, che era il presidio su cui sono nate, diciamo così, le latterie sono 9, mentre esistono anche una ventina di latterie cooperative e circa un'altra ventina di latterie private, diciamo, gestite privatamente dai titolari. Bisogna dire anche che sta nascendo ormai da diversi anni un fenomeno diverso, cioè la trasformazione aziendale del latte, cioè diverse aziende che si attrezzano direttamente, trasformano e vendono il proprio prodotto direttamente al consumatore finale. Per quanto riguarda le latterie o le piccole latterie della nostra regione, diciamo che si sono un po' così trasformate da meri siti produttivi a delle vere e proprie filiere complete, diciamo, dalla produzione primaria, cioè del latte, alla trasformazione fino alla vendita attraverso dei punti vendita o spacci direttamente dal loro punto vendita. Insomma. È il caso delle latterie di Malga? In Malga poi abbiamo durante il periodo estivo gli alpeggi in cui le aziende di Fondovalle portano gli animali e trasformano il latte direttamente in Malga. Lì, diciamo, il prodotto di Malga è un formaggio altamente apprezzato dai consumatori, con un discreto valore aggiunto e che, soprattutto in questa ultima stagione di alpeggio, ha avuto un apprezzamento molto elevato grazie anche al flusso di persone che sono arrivate su in montagna. Lei prima ci diceva che la latteria è un fenomeno di sostenibilità e soprattutto di economia circolare. Sì, di economia circolare, perché le aziende di dimensione ridotta, le medie o piccole aziende che trasformano in proprio, utilizzano questo metodo che non ha scarti di lavorazione. E si può dire che da queste latterie parte il chilometro zero. Sì, esatto, questa, diciamo così, è un modo di indicare, insomma, un prodotto che effettivamente è un reale prodotto del territorio, in quanto, diciamo, tutte le fasi produttive si svolgono a volte anche all'interno dello stesso comune e quindi c'è la disponibilità e la possibilità per i consumatori di rivolgersi a questi caseifici. Latterie come momento anche di alfabetizzazione agraria, di fattorie didattiche. Esatto, spesso proprio a queste latterie sono collegate le aziende che poi si sono attrezzate come fattorie didattiche, nel senso che poi studenti e ragazzi possono, diciamo così, visitarle e capire quali sono veramente i metodi tradizionali di produzione, come si faceva una volta. E vicino a queste fattorie didattiche ci sono anche le fattorie sociali, anche le malghe, in cui spesso vengono utilizzate persone che hanno problematiche di svantaggio psicologico o sociale, attraverso i cui, diciamo così, ritrovano la possibilità di essere inseriti nella società. A testimoniare le nuove attenzioni verso il mondo delle latterie, un'iniziativa dell'Ecomuseo delle Acque di Gemona e Slow Food, che hanno realizzato un manifesto decalogo intitolato Carta dei principi delle latterie turnarie, cui hanno aderito anche realtà friulane e slovene. Una carta dei principi e valori che hanno contraddistinto le vecchie latterie, valori che sono ancora validi e possono accompagnare la rinascita di questa esperienza. Storia, gloria e decadenza delle cipolle in Friuli Venezia Giulia in questo corsivo di Enos Costantini. In friulano la cevole è la cipolla, la ceve è lo scalogno e con sutile si intende l'erba cipollina. In ogni caso si tratta di piante raccolte per millenni quando l'uomo era cacciatore-raccoglitore. La culla originaria della cipolla è lontano Turkestan. Da lì emigrata nella mezzaluna fertile e poi in Egitto, dove alcuni bassorilievi la documentano nel 2300 avanti Cristo. È sicuramente nel bacino del Mediterraneo che questa specie, selezionata da diverse genti in diversi luoghi, ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità manifestando grande polimorfia e vivace policromia. Gli antichi greci e gli antichi romani ne conoscevano parecchie varietà, alle quali assegnavano spesso nomi geografici, non per moda, ma per indicarne il luogo d'origine o le località particolarmente vocate alla sua coltura. A differenza degli altri ortaggi, ha una certa durata nel tempo, e quindi poteva servire a pagare decime e affitti. Così nel 1260 alcuni villaggi del Basso Tagliamento dovevano corrispondere un centinaio di cipolle all'abbazia di Sesto Arreghena. In mancanza di cipolle potevano pagare con aglio. Nel 1310 il capitano di Udine riscuoteva lo stesso quantitativo per un'azienda che aveva a Morsano delle Oche, nei cui pressi vi è il villaggio di San Paolo, all'epoca noto come San Paoli d'Alis Cevolis. Nel 1501, sempre nella Bassa, si registrò un gravissimo fatto di cronaca nera, quando Antonio Ghitussi da Roveredo di Varmo fu accusato di un atroce delitto, cioè di avere rubato due sacchi di cipolle a un certo Giovanni di Madrisio. A Cervignano si teneva la Sagra del Redentore, che era detta anche Sagra della Cipolla. Cadeva nella terza domenica di luglio e durava 3 giorni. In tale occasione arrivavano i barconi di Chioggia carichi di questo ortaggio. Nella nostra regione si è registrato un aumento di produzione dal 1950 al 1979, quando si è passati da 2.500 quintali a 20.000 quintali su 166 ettari. A ciò è seguito un crollo, tanto che nel 1983 vi erano malapena 4 ettari. Ora siamo sui 18 ettari. Quanto basta per qualche terrina di fagioli con cipolla, piatto rustico e salutare che non produce gas a effetto serra, bensì un innocuo gas per la incolpevole lacrima dell'autentico gastronomo. La prossima settimana si aprirà un nuovo bando per le autorizzazioni all'impianto di vigneti. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico e economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Sì, gli operatori del comparto vitivinicolo sanno bene che l'attuale organizzazione comunitaria del mercato, nota con la sigla OCM, prevede che ogni anno gli stati membri dell'Unione possano distribuire gratuitamente nuove autorizzazioni al reimpianto di vite da vino in ragione dell'1% del potenziale viticolo esistente. Quindi dal 15 febbraio al 31 marzo chiunque abbia a disposizione una superficie agricola libera potrà fare richiesta presso il proprio centro di assistenza agricola e in Friuli Venezia Giulia parliamo di circa 265 ettari disponibili. Con quale criterio saranno allora ripartiti? La superficie massima per singola azienda è pari a un ettaro, mentre la superficie minima garantita per ogni domanda è pari a 1000 metri quadri. Una volta soddisfatti tutti i richiedenti con la superficie minima garantita, il residuo sarà assegnato con priorità a produttori biologici certificati da almeno 5 anni sull'intero vigneto aziendale e a soggetti che coltivano superfici con scarsa profondità radicale, cioè inferiore a 30 cm, nella zona del Chiasso. Ma in Friuli Venezia Giulia c'è effettiva esigenza di incrementare la superficie vitata? Siamo ormai a 26.000 ettari e se guardassimo esclusivamente al mercato delle uve e del vino dovremmo onestamente dire di no, ma confrontando la redditività media di un vigneto rispetto ad altre colture si comprende bene perché c'è ancora molto interesse. Chi ha autorizzazioni in portafoglio pare abbia difficoltà a realizzare gli impianti in questo periodo però. E questo è legato soprattutto alla crisi di liquidità determinata dal blocco del canale della ristorazione che assorbe buona parte delle produzioni di qualità della nostra regione. Il problema è che le autorizzazioni hanno una scadenza e una certa frazione di queste scade già nella prima metà di quest'anno. Sono tante le novità nel settore frutticolo, soprattutto quelle dell'allevamento dei ciliegi, come ci dice il professor Raffaele Testolin. Chi ha i capelli bianchi ricorda certamente la raccolta delle ciliegie di un tempo, lunghe scale e gare a chi arrivava più in alto a prendere le migliori, col rischio di rompersi l'osso del collo. Non è più così, è cambiato il mondo. Oggi il ciliegio è una coltura da reddito interessante per i frutticoltori a patto di farla bene. E allora due parole per i professionisti. Le varietà sono molte e alcune sono autofertili, il che vuol dire che su 10 fiori 4 diventano frutti contro i 2 delle vecchie varietà autoincompatibili. L'aumento di produzione è evidente. I vecchi ciliegi erano vigorosi, si sviluppavano in altezza con tutti i problemi a spostare scale durante la raccolta. Oggi abbiamo molti portinnesti deboli che tengono bassa la pianta, tanto da raccogliere quasi tutto da terra. Si può piantare fitto fino a 1000 piante per ettaro, 2000 per i più intraprendenti, e al quarto o quinto anno si è in piena produzione. Si alleva a vaso, impalcato basso o a fusetto come il melo. Un frutticoltore professionista che vende in casa può mettere a dimora una serie di varietà a maturazione scalare che coprono dalla fine di maggio fino a metà luglio. C'è un'altra possibilità importante per gli agricoltori di montagna: mettere a dimora varietà molto tardive per andare sul mercato a fine luglio, quando manca prodotto e quel poco che c'è è fornito a caro prezzo dai trentini e dai frutticoltori dell'Alto Appennino Emiliano. In tutti i casi, ciò che fa la differenza è la copertura con reti antipioggia, che permette di raccogliere ciliegie sane anche quando il tempo si mette contro. Si sa che la ciliegia, quando comincia a prendere colore, se piove, spacca, come si dice. In altre parole, si fessura, marcisce e non è più vendibile. Così, dopo aver lavorato per una stagione intera, l'agricoltore si vede portar via dalla pioggia il raccolto. La copertura con telo antipioggia costa, ma fa la differenza. Lo sanno i trentini della Val di Non o della Valle dei Mocheni. Chi volesse vedere come si fanno i nuovi impianti può fare un salto a Merna, Miren, in Slovenia, appena al di là del confine di Gorizia, dove c'è un piccolo istituto sperimentale per la frutticoltura gestito da brave e simpatiche ricercatrici. Vi faranno vedere, parlando un perfetto italiano, le nuove varietà, le forme di allevamento, le coperture e poi, se volete, d'inverno vi vendono anche le piante. Il ciliegio sotto copertura antipioggia si può vedere anche nell'azienda Servadei dell'Università di Udine in via Pozzuolo 324. Per la serie che dedichiamo alle tesi di laurea discusse all'Ateneo di Udine è la volta di Stefano Santarossa, che ci illustra il suo lavoro sui biostimolatori naturali e la coltura del peperone. Peperone, che è una coltura presente in Friuli Venezia Giulia con superfici molto piccole. Dall'ultimo censimento è emerso che nella nostra regione si trovano 7,26 ettari suddivisi in 166 aziende. Tipicamente appunto questa coltura viene coltivata in regioni più calde, come testimonia il fatto che circa il 60% della superficie nazionale a peperone si trova fra le regioni di Puglia, Campania e Sicilia. Per chi non ne fosse a conoscenza, i biostimolanti sono prodotti di origine naturale derivanti da matrici organiche, spesso anche da alghe. che hanno la funzione, come dice il termine, di stimolare la pianta nella sua crescita e fornire maggiori resistenze a stress biotici, come possono essere malattie o insetti, e stress abiotici, come carenze o eccessi idrici, forte intensità luminosa, eccetera. Per la nostra prova è stato scelto il peperone rosso perché risulta essere l'ortaggio con il più alto contenuto in vitamina C. Si pensi che il suo contenuto medio si gira intorno ai 200 mg su 100 g di prodotto fresco. Per fare un piccolo confronto, il peperone verde possiede un contenuto di vitamina C attorno ai 140 mg su 100 g di prodotto e il cavolo a foglia circa 135 mg. Lo scopo del lavoro era appunto individuare se l'utilizzo dei biostimolanti poteva apportare delle modifiche alla produzione totale, al peso medio dei frutti e al contenuto in vitamina C. Lavorando con la natura, però, non sempre tutto va come si vorrebbe. La prova stava procedendo molto bene, ma una virosi ha colpito la coltivazione appena prima di iniziare la raccolta, andando ad influenzare quindi la successiva raccolta dei dati. I valori ricavati non sono risultati essere significativi, per cui sarà necessario replicare la prova per ottenere dei risultati più solidi. Possiamo comunque dire che l'utilizzo di biostimolanti, soprattutto nella nostra regione, dove la maggior parte delle aziende orticole nascono per la vendita diretta, è molto importante per ridurre l'impiego di prodotti di sintesi e concimi chimici. Se poi dovessero incrementare anche il contenuto dei minerali e delle vitamine all'interno delle verdure, sarebbe un doppio vantaggio per il consumatore. Però questo speriamo di poterlo affermare il prossimo anno. Per la rubrica che si occupa degli effetti dei cambiamenti climatici e di sostenibilità in agricoltura, oggi Silvia Stefanelli ritorna sull'allevamento analizzando i concetti di benessere animale. Non è più sostenibile allevare nel mondo 60 miliardi di animali, la maggior parte dei quali in allevamenti intensivi, e affrontare le sfide climatiche. Ma non solo. La tutela della biodiversità, della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e anche della salute, perché molti di questi allevamenti possono essere serbatoi di batteri e virus che transitano all'uomo. Come sarà allora l'allevamento del futuro? Secondo me potrebbe essere ispirato anche ai criteri dell'agroecologia e al fatto che il benessere animale non è solo qualche metro quadro in più di spazio o cercare di ridurre la sofferenza. Al benessere animale è dare loro la possibilità di manifestare il loro comportamento naturale, recuperare la loro relazione con l'ambiente in cui vivono. Per esempio, recuperando i prati, i pascoli, il pascolo in foresta dove è possibile, il pascolo in superfici arborate. Penso ai tanti impianti che sono stati fatti con i contributi della PAC e che possono essere adattati a questo fine. Ma penso anche che l'allevatore del futuro dovrà essere consapevole dell'etologia dell'animale, delle sue necessità, che sono diverse. Le vacche hanno bisogno di ruminare, di pascolare, di mangiare erba, i maiali di grufolare. Quindi l'allevamento sostenibile del futuro sarà un allevamento più estensivo e in cui viene recuperata questa relazione dell'animale con l'ambiente in cui vive. Quali possono essere delle misure concrete da adottare nel breve periodo? Penso al Ministero della Transizione Ecologica, che sarà istituito a breve, e a quello che sempre la Francia, gli esempi che ci vengono dalla Francia, ci possono ispirare. Questo potente movimento francese si chiama la Convenzione dei cittadini per il clima, ha presentato delle proposte al Ministero della Transizione Ecologica per la zootecnia del futuro. Alcune di queste sono molto interessanti. Per esempio, rafforzare, migliorare, strutturare la filiera delle proteine vegetali. In Italia abbiamo tantissime varietà, per esempio di legumi, che stanno per scomparire. Altre misure riguardano il supporto al mantenimento di prati pascoli permanenti, pascoli estensivi, che possono anche migliorare lo stoccaggio del carbonio, quindi una funzione climatica rafforzata. Ridurre o eliminare i finanziamenti ambientalmente dannosi agli allevamenti intensivi, che non siano rispettosi dei principi dell'agroecologia, ma anche degli obiettivi molto concreti e monitorabili, come destinare il 50% delle coltivazioni a una gestione ispirata ai principi dell'agroecologia entro il 2040. Ecco, credo che potremmo partire da qui. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais comunità 14% è stato quotato tra 21,70 e 21,90 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 22,20 e 22,50, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 19,50 e 20 euro e la soia tra 49 e 49,30. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5,40 euro e la soia di 14 euro al quintale. Contrattazioni attive l'ortofrutticolo di Udine con prezzi costanti, l'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate tra 1,20 e 1,30 euro il chilo IVA esclusa, la ricchia rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso precoce tra 0,90 e 1,30, il variegato tra 1,10 e 1,30, i mandarini da 1,80. E le arance tarocco tra 0,90 e 2 euro. Nel settore della pesca l'andamento delle condizioni meteo non sono favorevoli e le quotazioni sono lievemente aumentate e alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 16 a 28 euro il chilo IVA esclusa, le ombrine e le sogliole da 7 a 24, le mazzancolle da 18 a 26, le seppie da 8 a 12, i calamari e calamaretti da 16 a 22, le canocce da 6 a 15, le orate da 3 a 10, le passere da 4 a 9, le capesante da 11 a 15, i folpi da 7 a 12 e i cefali da 2 a 5 euro al chilo. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano cenni di ripresa diversificati, con i polli a terra pagati tra 0,99 e 1,01 al chilo, IVA esclusa, le anatre tra 2,35 e 2,39, le faraone tra 2,29 e 2,39, i tacchini maschi tra 1,29 e 1,31, i conigli oltre 2 chili e mezzo tra 2,08 e 2,14 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Negli ultimi giorni, dopo il passaggio del fronte atlantico accompagnato dalle correnti miti sciroccali, le temperature si sono abbassate sensibilmente, con un calo di 10-12 gradi nei valori medi. L'arrivo di correnti secche e gelide continentali dal nord-est ha finalmente concluso il lungo periodo umido. Anche mercoledì scorso sono caduti oltre 100 mm sulle Prealpi Giulie, valori che dovrebbero essere registrati nell'intero mese. Quest'ondata di freddo non sembra essere da record e si concluderà nel giro di pochi giorni. Tuttavia, era dal 2018 che febbraio non si presentava con temperature così basse. Domani mattina avremo ancora gelo, specie nei fondi valle montani, dove si toccheranno e localmente anche supereranno i meno 20 gradi. Decisamente sotto zero ancora in pianura, un po' meno freddo invece sulla costa dove non soffrirà più la bora. Il tempo sembra rimanere abbastanza stabile per gran parte della settimana, con bassa probabilità di precipitazioni. Nei primi giorni avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, mentre da mercoledì è possibile che a iniziare dalla costa e dalla bassa pianura si formi nuvolosità negli strati medio-bassi e saranno anche possibili delle foschie. Le temperature, all'inizio ancora sotto la media di 3-4 gradi, saranno poi in aumento, soprattutto in quota, con valori al di sopra della norma e con probabile inversione termica nei bassi strati. Verso la fine della settimana è probabile che con il rinforzo dell'anticiclone sull'Europa orientale riprenda a soffiare bora moderata sulla costa e le temperature tornino un po' a scendere. Ma come sempre è opportuno seguire l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: a San Valentin glace la muele, la ro e tutto il mulin, ovvero a San Valentino il 14 febbraio si ghiaccia la mola, la rogia e tutto il mulino, ad acqua ovviamente. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.